Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Ma se fosse il Siena la squadra del giorno, anzi di questo periodo, visto che ieri sera ha battuto con disinvoltura la Roma, la settimana precedente ha battuto con altrettanta disinvoltura e con un punteggio troppo stretto, perché avrebbe meritato probabilmente di meglio il Napoli, nel frattempo aveva imposto il pareggio alla Juventus a Torino, la classifica ancora non è così rassicurante, ma mi pare che il livello di prestazioni e l'autorevolezza con cui le esprime autorizzino questo sospetto, che ovviamente è una gran bella notizia per i tifosi senesi. Sono minuti decisivi questi, non ore, minuti decisivi per sapere che fine farà la candidatura italiana alle Olimpiadi romane del 2020. Ma ormai le indiscrezioni si susseguono e sono tutte di uno stesso segno, e sono che fortunatamente, dal mio punto di vista, almeno il Premier Monti ha resistito, sta resistendo, pare proprio abbia resistito all'ondata di pressioni più o meno demagogiche, più o meno affaristiche, e abbia deciso che non è questo un momento in cui un paese come l'Italia si può permettere l'organizzazione dei giochi olimpici, ammesso e non concesso che ci siano paesi che ancora oggi possono permettersi senza colpo ferire di organizzare manifestazioni così elefantiache come sono diventate le Olimpiadi. E domani, per approfondire questo argomento, ne sentiremo parlare da Londra, che quest'estate sarà per l'appunto la città ospite dell'edizione del 2012. È ovvio che il programma del martedì, come sempre, è dedicato al calcio internazionale, però è anche vero che il pomeriggio di San Valentino è giusto ospitare un ricordo, in questo caso è appena arrivato via mail, firmato Andrea Bascucci da Rimini, e dice: oggi si ricorda un campione della mia terra romagnola, di tutti noi italiani, di tutti gli appassionati di ciclismo del mondo, morì una sera a Rimini, a 500 metri da dove mi trovavo, un momento di dolore indelebile. E poi il ricordo delle grandi prodezze di Marco Pantani: quel lancio della bandana, scrive Andrea, era come stappare uno champagne a Capodanno, partivano i botti e iniziava la festa. Bentornato al ministro degli esteri Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, intanto avrei bisogno, per interesse privato, che tu avessi anche la delega per la salute, perché gli esteri al momento, per carità, interessano e come, ma potrebbe darmi una mano. Dicevo, 14 febbraio, giorno di San Valentino, torna finalmente, questa è la frase che tu aspetti ogni anno, torna finalmente la vera Coppa dei Campioni, quella a eliminazione diretta. Esatto, questa è una scadenza annuale che noi abbiamo con te, caro Gigi, parlo a nome anche di tutti gli ascoltatori, perché classicamente da ormai qualche anno, quando la fase della Champions League diventa ad eliminazione diretta, a te piace ricordare questa cosa e a noi piace ascoltartela dire, perché vuol dire che siamo entrati nella fase più bella della stagione, e questo è per noi motivo di felicità. Poi già nel corso di questa puntata, più avanti, soprattutto se arriverà la decisione del primo ministro Monti, e poi a maggior ragione domani, ci sarà spazio per i vostri interventi sul pro o contro le Olimpiadi, cioè se condividete o meno questa decisione, che non è ancora stata presa, lo ripeto, ma che sembra orientata verso il no. Dai primi messaggi che leggo sul display mi sembra che sia un plebiscito quello a favore della posizione rigida, anzi negativa, direttamente di Monti, e questo da un lato non mi sorprende affatto, perché questo credo che sia quello che pensa davvero l'italiano chiamato a fare sacrifici in questo momento, e magari a non farli per organizzare le Olimpiadi, ma credo anche che sotto sotto ci sia proprio questo concetto che è alla base, no, di un atteggiamento negativo da parte di chi ha la responsabilità di decidere, ma che sa interpretare in questo caso proprio anche un sentimento popolare. Noi torniamo per il momento al pallone, e anche se mi permetti, per ragioni di competenza specifica e territoriale, Sky e quindi il torneo delle sei nazioni, eccetera, io ti farei prima una parentesi di pallone ovale. Volentieri. Ecco, perché è vero che in questo fine settimana è successo di tutto, e poi ci arriviamo, ma se devo dire la cosa che più mi ha lasciato basito è stato quel rinvio di Francia-Irlanda sabato sera a pochi minuti dal fischio d'inizio e con lo Stade de France regolarmente già strapieno. Sì, questa è una decisione, intanto è clamorosa perché non era mai accaduta nella storia delle Sei Nazioni che venisse rinviata una partita. Le condizioni del terreno, se c'è stato errore, io ho cercato un po' di trovare delle crepe nelle versioni ufficiali ieri, interrogando un pochino i protagonisti dei nostri studi e anche ex grandi giocatori. Devo dire che nessuno mi ha fatto pensare di poter parlare di una decisione scandalosa, al contrario. Forse l'unica cosa sbagliata è che, conoscendo le previsioni, che erano molto dettagliate e molto precise, ci si poteva pensare anche un giorno prima, nel senso che il crollo della temperatura era ampiamente previsto. Le condizioni del campo erano oggettivamente impossibili, tenendo conto che il rugby è uno sport nel quale sì, la palla rimbalza molto meno rispetto al calcio, anzi spesso non c'è bisogno di farla rimbalzare per terra, ma i giocatori finiscono per terra molte più volte, e andare per terra a gambe nude a una temperatura del genere con il ghiaccio che ti poteva tagliare le gambe, io credo sia stata una decisione saggia. Sì. Quello che di sbagliato c'è stato, Gigi, è che è stata una decisione molto tardiva, perché lo stadio si è riempito, c'erano quasi 80.000 persone, questo ci porta intanto a pensare che da un punto di vista del cosiddetto ordine pubblico, che è la vera motivazione per la quale molte partite in Serie A, non tutte però, sono state rinviate, l'ordine pubblico abbia funzionato alla perfezione, e quindi questo significa che lo stadio di Parigi è perfetto da questo punto di vista. Per il resto, con l'orchestrina, mi si passi il termine di orchestrina, che stava provando gli strumenti per tenerli caldi e non farli ghiacciare per suonare gli inni nazionali, ecco, con appunto questa orchestra non nemmeno sapeva che la partita sarebbe stata rinviata. Il conciliabolo tra capitani e arbitri è avvenuto all'interno degli spogliatoi, e loro erano lì prontissimi per suonare gli inni, e poi a un certo punto, non vedendo più arrivare i giocatori, hanno capito che qualcosa era successo. Gli irlandesi, un po' per macismo forse o non so per che cosa, comunque a decisione presa sono entrati in campo e si sono allenati. È stato allenati lo stesso. Bellissimo quell'allenamento, come dire, di riscaldamento, no? Ma sì. ovviamente in braghette e maglietta a maniche corte, a quella temperatura polare. Senti, per analogia, poi arriviamo davvero alla Coppa Campioni più in generale, ma c'è questo dettaglio di una possibile decisione simile domani sera a San Pietroburgo per Zenit Benfica. Ho letto che la partita si dovrebbe disputare regolarmente, ma che l'UEFA tiene d'occhio il termometro, perché già si giocherà al gelo certamente, però se scende sotto i meno 15 l'UEFA dice no, esagerumanen, come si dice nelle mie parti in Piemonte. Guarda, è la decisione più saggia che possono prendere, l'ha detto anche Pierluigi Collina ieri, non esiste una motivazione per imporre, per far sottoporre ai giocatori e agli spettatori un massacro del genere, cioè a quelle temperature si sta a casa, quindi secondo me meno 15 è anche troppo, io credo che anche con 10 gradi sotto zero non sia il caso di giocare. Poi lì è un discorso più da esperti, e probabilmente da esperti di cardiologia piuttosto che di altre materie a carattere medico, e quindi non mi addentro. Trovo che ci sia un limite. Se il limite è fissato a meno 15 è giusto che venga fatto rispettare, possibilmente non taroccando i termometri, ma facendo appunto, prendendo questa decisione che condivido in pieno. Sono arrivati finora una ventina di messaggi, però la curiosità è che non ce n'è uno a favore delle Olimpiadi e contro la decisione verso cui si sta orientando il governo nella persona del primo ministro Monti, cioè quella di bocciare il progetto olimpico. Mario da Roma, Stefano Antonio, Fabio da Novara, Sergio da Vignola, Desiderio da Milano, Carlo, poi ce ne sono un paio anonimi, Danilo Giordano, Marco, Stefano, un altro ancora, Luciano da Biella, con motivazioni diverse, ma assolutamente unanimi. Aspetto qualcuno favorevole alle Olimpiadi, anche perché sarebbe interessante capire se questo comitato organizzatore aveva anche interpretato il sentimento popolare di una parte, perlomeno, del paese, oppure se semplicemente era un, come dire, la consueta lungimiranza, no? di mettere in cantiere delle opere pubbliche con rigoroso interesse pubblico e mai privato, come è accaduto in tutte le ultime edizioni che si sono svolte in Italia in manifestazioni, a cominciare dai mondiali di nuoto romani del 2009. Caro Fabio Tavelli, si apre stasera con Lione Apoel e con Bayer Leverkusen Barcellona. Non si può dire che si apra col botto, però si apre comunque con un paio di partite che un minimo di interesse lo non nascondono. No, io non ero aperto prima, ma volevo unire anche Fabio da Pavia per quanto riguarda i contrari a questa cosa. Beh. E quindi devo dire che andando poi sui siti, in questo momento ad esempio Marca, che è particolarmente interessata a quello che succede a Roma, visto che Madrid è l'altra candidata, ha proprio titolato Roma ha rinunciato, che non è vero perché non è ancora ufficiale la notizia, però l'hanno presa per la parte che gli interessava di più, per cui anche sui siti esteri viene data così, ma non perché ne sappiano di più, semplicemente perché copiano quelli italiani come noi copiamo quelli esteri quando spesso quando e volentieri questo non scopro nulla. Va bene, non un inizio col botto, però una bella spalmatura, nel senso che stasera ci sono due partite, Lione-Apoel. Devo dirti che è un po' il sottoclou, nel senso che il clou è Bayer Leverkusen Barcellona. Sì. Il Lione è in una fase abbastanza difficile, il campionato sta zoppicando, non è competitiva per vincere il titolo e ha avuto la grande fortuna di incontrare l'Apoel Nicosia. Grande fortuna lo diremo fra 180 minuti, sì. perché io sinceramente, per come si è qualificato il Lione, un filino di tifo per l'Apoel Nicosia mi sento di farlo, sì. Ricorderete la partita di Zagabria. Certo. E quindi per me forza Apoel, poi è anche vero che avere l'Apoel ai quarti di finale vorrebbe dire fare un discreto regalo, però vediamo perché tutto sommato oltre alla simpatia che questa squadra può ispirare, c'è anche appunto un'antipatia in questo momento verso l'Olympique Lyonnaise. Bayer Leverkusen Barcellona è una bella partita perché Bayer Leverkusen, pur senza giocatori importanti come Ballack, che ormai ha praticamente terminato la sua esperienza al Bayer Leverkusen, nel senso che è considerato e viene messo ai margini al di là poi dei problemi fisici che ha e anche in viso all'allenatore, l'altro giocatore pesante della formazione è Der Diok, che si è fatto male in maniera abbastanza buffa inciampando su un vetro, credo di un contenitore di uno spazzolino all'interno del proprio bagno, si è tagliato la parte sotto del piede e non è dunque elegibile per la partita di questa sera. Non è disponibile. La curiosità vera è per il Barcellona, che torna a esibirsi su un palcoscenico che le è più consono, ma che torna a farlo dopo qualche prestazione che ha sinceramente costretto tutti i commentatori a domandarsi perché, non perché, perché quella è territorio di Mourinho, certo. Ma perché il Barcellona stia in questo momento a 10 punti dal Real Madrid, che mi sembra una discreta analisi da fare, sulla quale se voi possiamo anche esercitare. Ma sì, io direi di tentarla, perché so, per esempio l'altra, 10 punti, a parte il fatto che chi ci segue sa che è dal primo autunno che la nostra tesi comune, non sempre la pensiamo alla stessa maniera, ma in questo caso sì, che questo sarebbe stato l'anno del Real, sia sì. Per meriti del Real che per non demeriti, ma insomma si intravedeva che non era l'anno giusto per il Barcellona, no? Troppi infortuni, troppi problemi, scadimenti improvvisi di qualcuno, eccetera. Devo dire che l'altra sera ho visto il campo, la sconfitta di Pamplona, nulla da dire, ma il campo di Pamplona, quello dell'Osasuna, ci corrono nel siero però lì sopra. Probabilmente sì, secondo me 10 punti sono troppi anche perché il Real Madrid lo sconto diretto l'ha perso e magari perderà anche il prossimo, ma non è quello il problema. 10 punti nascono da due o tre fattori, secondo me. Intanto che il Real Madrid sta avendo un rendimento pazzesco, ma assolutamente fuori controllo, cioè ha fatto 58 punti su 66, può stracciare il record, tutti i record della Liga, può superare 100 punti, può superare sì. Il record dei 107 gol. Questo significa anche qui due cose: A, che il Real Madrid è in questo momento George Foreman, cioè butta giù tutti a pugni tranne il Barcellona, e B, che il livello generale della Liga è clamorosamente in flessione. Quindi dicevo, 10 punti sono tanti anche perché il Barcellona qualcosina può recriminare, sia sugli infortuni che anche per due o tre decisioni arbitrali che Guardiola non lo dice, possiamo dirlo noi, 3-4 punti glieli hanno abbastanza. Direi da 4 in su, sì, in momenti chiave della stagione, vabbè, ma insomma questo faceva parte della strategia madrilena, no? Cioè, sì. Hanno cominciato a piangere, ha cominciato a piangere sugli arbitri quando ha capito che il vento quest'anno era per il Real, perché sì. È giusto, bisogna coprirla la bora. Interpretare il vento, sì. Certo, interpretare il vento, coprire la bora quando è forte, come è stato in queste due settimane deliranti per i miei poveri amici triestini. Senti, io da simpatizzante del Barcellona e non certamente... non certamente così occulto, mi consolo perché sto vedendo altri due o tre ragazzi di quelli che un giorno ci faranno divertire. Già adesso mi diverto con Teglio, sì. che mi sembra un'ala ambidestra di quella di una volta, con grandi qualità, con molta sobrietà anche, adesso non vorrei parafrasare troppo il nostro Premier, ma insomma ha grandi qualità ma non le ostenta ad ogni costo, come invece tendono a fare i ragazzi che vogliono strafare, no? nei momenti in cui cogliere l'attimo e cogliere, sì, l'occasione. Questo io credo che sia dovuto a un paio di situazioni. La prima è che entra in un meccanismo dove ci sono giocatori di grandissima caratura, e mettersi a fare i fenomeni in una squadra che ha Messi, che ha Xavi, che ha Iniesta, può anche risultare abbastanza stupido. Qualcuno ci ha provato, tipo Giovanni Dos Santos qualche anno fa aveva cominciato a fare la foca, e sì, infatti è durato una stagione e mezza, e poi l'hanno spesato e si è un po' perso. Credo che la cantera, che la masia del Barcellona insegni anche a entrare in un meccanismo che viene sempre considerato abbastanza più grande dei singoli, salvo qualche eccezione, e l'eccezione è evidentemente la Pulga, però per il resto sia Thiago Alcantara che Teglio che tutti gli altri sono entrati in maniera abbastanza felpata, abbastanza in punta di piedi, hanno fatto vedere di poterci stare. Credo che una volta avranno conquistato il loro posticino da titolare, magari potranno anche lasciarsi leggermente andare. Fin tanto che entrano ed escono, mi sembra che cerchino di fare il loro compito, cioè cerchino di non far capire che loro sono quelli che stanno sostituendo, cioè sì, si accontentano di non far rimpiangere, sì, i titolari, e se non li fanno rimpiangere vuol dire che giocano una grande partita, perché è vero. E poi c'è un altro piccolo test che ho notato in tutte e due le presenze di Teglio che ho visto, e cioè che Messi gli ha piazzato almeno 2-3 assist di quelli profondi, proprio cercando lui in particolare. Vuol dire che quando un campione come Messi ti cerca, magari potrebbe provare ad andare in porta lui, come fa spesso, anzi come fa troppo spesso. Invece l'ha cercato un paio di volte o tre per partita, e questo è sempre un buon segno. Sì, sì. Dunque adesso ci resta poco, perché sono andato un po' lungo, e quindi ci resta poco per Milan Arsenal, che comunque è domani sera, ma che ha oltre a tutto quello, alle curiosità che riguardano il Milan, ha quella di Henry. E poi volevo una parola tua su Suarez, su Evra e su questo ignobile episodio di sabato. Beh, guarda, io ho sentito il tuo programma di ieri e trovo che già le tue parole non necessitino un ulteriore carico. Trovo che sia una vicenda squallida nella quale questo ragazzo è riuscito a peggiorare una condizione disastrosa nella quale si era messo, e che quindi sarà molto molto difficile per lui continuare a giocare in Premier League. Per molto meno giocatori sono stati subissati di fischi, insultati, gli hanno reso la vita impossibile. Io credo che questo potrebbe accadere a Luis Suarez, credo anche che il Liverpool se ne libererà prima possibile. Da un punto di vista tecnico Suarez resta un giocatore di indubbio talento. Credo anche che sia opportuno che vada a fare un salutare bagno di umiltà da qualche parte, a ricominciare, a ricostruirsi, a pensare a quello che ha detto, a pensare a quello che ha fatto, quello che non ha fatto, alla figura vergognosa che ha fatto davanti a tutti, e solo così potremo salvare il ragazzo, insomma, perché il calciatore è indiscutibile, il ragazzo è molto discutibile, e anzi in questo momento è semplicemente degno di andare dietro la lavagna con delle orecchie d'asino grandi come tutto Anfield. Perfetto. Con molta amarezza, tra l'altro, perché appunto il calciatore è un signor calciatore. Leggevo stamattina, e poi vabbè, pazienza se non ci sarà spazio per Henry, abbiamo tutto il tempo domani. Leggevo stamane di quanto siano furibondi i proprietari americani del club, cioè del Liverpool, per la sottovalutazione manageriale che il Liverpool ha dato di questa vicenda. Cioè, si sapeva da settimane che quello sarebbe stato l'incrocio tra Evra e Suarez. E quindi da settimane, io non dico Dalglish, non so chi, se il dirigente accompagnatore o forse se tutta la società, doveva avere ben presente che questo era l'attimo chiave, forse ancora più della partita, visto che il Liverpool è poco più su della metà classifica. Il fatto che tutti si siano fatti cogliere alla sprovvista, che Suarez sia stato lasciato libero di avere questo colpo di anarchia, e che alla fine Dalglish abbia anche balbettato qualche frase a sua volta imbarazzante, pare che abbia fatto infuribondire davvero gli americani. Sì, la spiegazione ufficiale è che Suarez avesse detto prima della partita che era tranquillamente disposto a stringere la mano a Evra, tranquillamente disposto, insomma, era Evra che doveva essere disposto a a stringerla a questa canaglia, però Suarez aveva detto che l'avrebbe fatto, poi non l'ha fatto. Io non so cosa sia passato nella testa, non so cosa ci sia nella testa di Suarez, certe cose alla fine poi non vengono mai fuori fino in fondo. Credo che Dolglish abbia dimostrato grande imbarazzo, perché ha anche bofonchiato che lui non ha visto, e magari ci può anche stare che non abbia visto. Mi rifiuto di pensare che alla fine del primo tempo non abbiano potuto vedere con i monitor che hanno nei corridoi che portano al campo tutta questa cosa, e che nessuno lo abbia informato. È un vero peccato. Gli dèi del calcio comunque alla fine esistono, Gigi, perché sul 2-1 Suarez ha avuto la possibilità di fare 2-2 sotto la curva dei tifosi del Manchester, invece la palla è andata alta. Non è successo. E quindi esistono anche loro. Esistono, e speriamo che continuino a farlo. Fabio, noi ci sentiamo giovedì e parleremo di Henry magari giovedì, poi vedremo in che termini. Quando vuoi, grazie. Molto bene. Grazie, chiudiamo questo collegamento. Adesso l'intervallo un pochino più lungo per i mercati. Dopo avrei qualche messaggio da leggervi tra i più significativi che avete scritto a proposito di Olimpiadi. Consiglio dei Ministri ancora in corso, il nodo Olimpiadi non è ancora stato ufficialmente affrontato, quindi la decisione è ancora di là da venire. È arrivato nel frattempo anche qualche messaggio dispiaciuto per la bucciatura olimpica, ammesso sempre e non concesso che poi il progetto venga davvero respinto dal governo, perché come vi ho detto subito prima della linea alla borsa, di ufficiale ancora non c'è nulla. Scrive Claudio Caravano da Fiano Romano: a me dispiace, si poteva almeno provare a proporre Olimpiadi meno elefantiache delle ultime, magari proponendo un nuovo modo di organizzarle. Il messaggio è abbastanza lungo, allora io proverei a riflettere per capitoli. Si può provare a proporre un'Olimpiade meno elefantiaca delle ultime? No, caro Claudio, perché arrivano dei dossier di candidatura che sono prestampati da parte del CIO, sono sempre più giganteschi, perché ammettono sempre più discipline, sempre più atleti, sempre più personaggi, quindi non è che adesso uno può dire sì, ve le facciamo, però ve le facciamo un pochino in versione più light, cioè prendere o lasciare. Primo, non può essere un discorso, aggiunge lei, caro Claudio, quello dell'in Italia non sapremmo farle senza sprechi e corruzioni, altrimenti varrebbe per tutto, riforme e infrastrutture incluse. E anche l'orgoglio nazionale, che non significa necessariamente andare in bancarotta, dovrebbe ancora valere qualcosa. Tutto ammissibile. Io la invito a leggere, tra le tante letture possibili, a leggere una pagina pubblicata ieri, pagina 21 del Corriere della Sera, Susanna Tamaro che racconta le sue disavventure di tutti questi anni sui treni italiani, in particolare sulle rotte intorno ad Orvieto e in direzione Trieste. È una paginata lunga, forse è la prima volta che leggo così tanta Tamaro in vita mia. Secondo me ne valeva la pena, e credo che non basterebbe allegare un ritaglio di questo genere, scritto da una persona di grande attendibilità, ma poi come funzionano i treni in Italia lo sappiamo. Credo che basterebbe questo per demolire qualsiasi ipotesi di candidatura olimpica. Questo è un paese che deve essere rifatto dalle fondamenta e dalle infrastrutture e dalle ferrovie, per esempio, per cominciare. Non certamente dalle piscine o dalle palestre. Antonio ha chiamato da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Senta, io volevo dire che lei evidentemente c'è un problema personale con Mazzarri, perché lo sta sempre a criticare dalla mattina alla sera, però da qui poi a distorcere la realtà dicendo che la partita con il Siena noi la dovevamo perdere con il punteggio più largo, quando tutti quelli che hanno visto la partita, il portiere ha fatto i miracoli, abbiamo preso due pali, il Siena ha fatto due tiri in porta, ha fatto due gol. Allora io dico, se uno deve fare il problema personale con Mazzarri e gli sta antipatico e ci deve dire le cose perché non gli è simpatico, perché il Mourinho italiano e tutte queste cretinate qua, mi sta pure bene, però poi se si deve fare, si deve analizzare. Se si deve essere obiettivi, no, non si deve per esempio tener conto che il gol del 2-1 del Napoli è una incredibile autorete, un'incredibile disavventura di un difensore del Siena, no? Che va in spaccata senza avere nessuno alle spalle e si caccia dentro il pallone dell'1-2 rimettendo in corsa il Napoli, e probabilmente sulla doppia sulla doppia partita con quel gol, rischiando davvero di qualificare il Napoli o comunque di agevolare quella qualificazione. Dopodiché non c'è dubbio che il Napoli nell'assalto finale avesse creato un sacco di occasioni, e vorrei vedere che il Napoli, che è squadra di Coppa più che da campionato, non creasse occasioni nel finale della partita di Siena, essendo tra l'altro sotto sullo 0-2. Questo al netto di simpatie, antipatie o partigianerie assortite, che io la prego di credere, nel caso del Napoli proprio non, magari in qualche altro caso può anche capitare, nel caso del Napoli proprio no, anche perché Mazzarri non è, quando Mazzarri è così partigiano nella lettura delle partite, non è antipatico, è divertente, io lo trovo particolarmente divertente. Carlo da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Grazie. Sì, io volevo riallacciarmi alle Olimpiadi e mi ha tolto le parole di bocca. Io credo che ci siano cose, soprattutto in questi momenti, molto più importanti che divagare su un qualcosa di importante, perché io lo dico poi con tristezza, perché ho sempre fatto lo sport, ho dei figli che fanno lo sport, quindi lo ritengo una cosa importante. Però abbiamo già, almeno io ho ancora in mente gli sprechi di Italia 90 e quant'altro. Poi la situazione oltretutto è anche peggiorata, ci si trova in una situazione disperata, non so che parola, che cosa altro trovare. E in questo momento, oltre alla disperazione, quindi le cose importanti che diceva lei, che ci sono da fare, altro che le Olimpiadi, ritengo che non si è più in grado a livello politico, a livello di gestire queste situazioni. L'Italia oggi non è più in grado, quindi ci sono cose più importanti, e lo dico e lo ripeto, mi dispiace, ma sono contrario assolutissimamente al fatto che... Grazie Carlo, sì, il messaggio, cioè il messaggio, la sua opinione è molto chiara. Io credo che a monte ci si dovrebbe davvero interrogare se questo inizio di terzo millennio, con questa crisi mondiale economico-finanziaria pazzesca, sia ancora uno scenario possibile per delle Olimpiadi, ripeto, sempre più elefantiache, sempre più gigantesche, sempre più voraci da tutti i punti di vista. Io già lì sarei nettamente contrario, le dirò, ma chiudendo invece un occhio e lasciandoci incantare dalla retorica dei cinque cerchi eccetera, che poi è tramontata da Mo, si può anche arrivare a pensare che nazioni più in ordine della nostra e soprattutto più moderne della nostra, che non devono rifare che non devono rifare il paese prima di pensare alle, ripeto, che non devono rifare le ferrovie prima dei binari, prima di pensare alle piscine o alle palestre. Si può anche darsi che qualche paese che non è in questa sventurata condizione possa permettersi queste sfide. Io però ne dubito, e domani ci facciamo raccontare di Londra, e se a Londra sono poi davvero così felici di aver vinto questa candidatura e il 27 luglio di partire con questa simpatica spupazzata olimpica. Antonio ha chiamato da Cagliari, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io, sempre ragionando sugli Olimpiadi, sarei un attimino più riflessivo, più cauto. Cioè, non sono né per il sì né per il no, ma avverto la difficoltà di avere chiara un paragone tra costi e benefici, perché ascolto le motivazioni del comitato promotore, dove ci sono persone degnissime e meritevoli di essere prese in massima considerazione, e ascolto le ragioni invece di chi invoca cautela soprattutto sui conti economici. Però avere francamente una valutazione congrua, oggettiva, non è facile, e non mi lascerei trasportare né dall'emotività né dalla demagogia. Cioè, è vero che Londra magari pagherà uno scotto, ma si vedrà dopo, dirlo adesso forse è impegnativo, però quello che è successo a Torino con le Olimpiadi invernali mi sembra che sia positivo, anche Barcellona entro certi limiti. Appunto, vediamo i limiti. Entro certi limiti, non prendo l'esempio. Scusi se insisto, ma... Sì, però Antonio, non prenda l'esempio di Barcellona 92, che era un paese non in ascesa, in decollo addirittura, l'intero paese e Barcellona e la Catalogna in particolare. Prendiamo Atene nella sua ultima edizione e chiediamo ai greci se per caso potessero tornare indietro, visto la situazione che poi per altre ragioni, si sono trovati ad affrontare se rifarebbero quelle Olimpiadi. Io ho paura che anche di queste, anche queste riflessioni vadano fatte. E adesso sentirei però Sannino, perché mi pare che valga la pena di ogni tanto di dare spazio a questo allenatore ruspante, che forse è più moderno di Mondonico nella concezione calcistica, ma è altrettanto antico nello spirito, nel modo di interpretarle queste sfide dei piccoli contro le grandi. In questo momento quello che conta a Siena è muovere la classifica in campionato. La Coppa Italia l'abbiamo giocata, siamo stati bravi a fine del primo tempo in vantaggio, c'è un secondo tempo da giocare a marzo, però la mia testa è solo nel campionato. Io vorrei poter arrivare alla fine e raggiungere l'obiettivo che questa città mi ha posto. È difficile, però facciamo il meglio che possiamo fare. Penso che sono 3 punti di straordinaria importanza per la classifica. Io guardo la classifica, dobbiamo fare punti. Olivero scrive: le Olimpiadi le organizzano i paesi da tripla A. Livio dice: le Olimpiadi le potrebbero organizzare i privati con il loro denaro al 100% e con il controllo di almeno 200 magistrati ogni 300 persone che fanno parte dell'organizzazione. Grazie, mi sembra di essere stato chiaro. Beh, più chiaro di così, Livio, era difficile. Credo, magistrati con la Guardia di Finanza a fianco, immagino di capire, e magari anche non solo. Il passato qualcosa ci insegna, no? Anche per questi eccessi apparenti di severità. Solo per farle notare, scrive Riccardo Ricci, che ieri sera il Siena ha iniziato la partita schierando 11 italiani su 11. Beh, questa è una... non mi fido, sto sulla fiducia. Mi sembra una notazione molto, ma molto interessante. Andiamo da Nicola Filippone e dal suo Sembra Ieri. Sembra Ieri. 14 febbraio 1973. Hampden Park, Glasgow. La federazione scozzese festeggia i 100 anni di vita con un amichevole di lusso contro l'Inghilterra. Ma la festa dura poco. L'Inghilterra passa dopo 10 minuti, fa 3 gol nel primo tempo e dilaga fino al 5-0 definitivo. Protagonisti, 2 giocatori del Leeds United. Lo scozzese Peter Lorimer, che realizza l'autogol dell'1-0, e l'inglese Alan Clark, autore di una doppietta. Quella del centenario è la sconfitta più pesante subita dalla Scozia in casa. Insieme a un altro 0-5, sempre contro l'Inghilterra, datato 17 marzo 1888. Che uomo noioso e zitellesco, scrive Monica. Monica, sono io? Se sono io, mi dirà l'attenuante generica di mezza, tre quarti di influenza. Se per caso fosse il Premier, invece, perché in fondo... in questa vicenda, e non solo in questa vicenda, ha l'aria un po' noiosa e zitellesca, non c'è che da tornare a cambiare, ci riprendiamo il bagaglino e siamo tutti più allegri, no? Per qualche altro tempo. Gennaro, Napoli, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo dirle solo per la che ieri era giusto che Aronica venisse buttato fuori, e che per la parte di Mazzardi... non è che ci deve vendere chissà che, gli episodi contro come quello del Cesena capitano, basta solo analizzare con serenità. E io che sono un tifoso del Napoli, sono molto molto contento della stagione del Napoli, tutto qui. Molto bene. L'ascolto per l'aria. Molto bene, grazie Gennaro. Potremmo andare a Pavia da Luigi, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo chiedere una cosa. Ho visto la partita di Inter Novara e mi chiedevo, innanzitutto la maglia del Novara mi sembra sia azzurra, no? O celeste. Sì. Ecco, sì. Perché ha dovuto cambiare la maglia e l'arbitro ha indossato la maglia del Novara? So, sono il marketing ha le sue esigenze. Può darsi che in determinate trasferte la squadra, il Novara e tutte le altre squadre decidano di giocare con un'altra maglia. Questo vale in Italia, all'estero ormai i colori sociali sono diventati un optional. Poi? Un assurdo. Va bene. Ah, pensavo peggio, però, tutto sommato. Invece era una questione cromatica. Sì, ogni squadra ormai ha 3, 4, 5 maglie che alternano in maniera, ogni tanto in base anche alle richieste degli sponsor, perché su certe piazze lo sponsor richiede un colore anziché un altro, perché magari è legato a un prodotto, vale per esempio per la Juventus questo certamente, per i panettoni, veda di non infierire eccessivamente. Dunque, in merito alle Olimpiadi 2020, scrive Giuseppe da Sesto San Giovanni, se anche venisse poi dato parere favorevole ci sarebbe una concorrenza oggettivamente forte. La Turchia, che vorrebbe essere risarcita per Expo 2015, Doha, che ha dalla sua tanti petrodollari, Tokyo, un'organizzazione notevole. Non dimentichiamo poi un aspetto non secondario, 2012 a Londra, 2016 in Brasile, quindi per forza di cose le Olimpiadi 2020 andranno in Medio Oriente o nell'est asiatico, per forza di cose non direi. Ergo, le candidature di Roma e Madrid sembrerebbero azzoppate in partenza. Che ne pensa? Sì, Giuseppe, potrebbe essere un buon ragionamento in più, infatti, ma io credo che il no debba venire a monte. Il no sta, in base alle indiscrezioni, sta maturando sempre più, però sta anche tardando, perché non è ancora ufficiale. È vero che sulla base di tutto quello che è filtrato sino ad ora, a questo punto un sì del governo sarebbe una notizia davvero abbastanza clamorosa. Io sentirei il mondonico del giorno dopo, perché comunque insomma, è una giornata attesa per tanti di quegli anni, che se anche viene celebrato l'indomani mi pare che ci possa stare. Ecco. Questa situazione, che però è particolarissima e sicuramente è bellissima anche per chi come me magari ne ha passate, ne ha viste di tutti i colori, o rivivere emozioni di un certo tipo fa molto molto piacere. Il primo è stato un grande con 5 punti esclamativi da Prandelli, e il secondo un messaggio da questo centro alcolisti qui del paese, dove una rappresentante proprio mi ha fatto i complimenti dicendo che sicuramente i ragazzi hanno apprezzato questa vittoria e che per loro sono un po' un esempio da seguire. No, perché il mondo da anni allena anche una squadra di ragazzi da recuperare dall'alcol, e ovviamente lo fa senza troppe fanfare, senza troppa pubblicità, come in fondo è nel suo DNA. Mondonico è un uomo di provincia, di Rivolta d'Adda, è un uomo di trattoria, e da lui si è sempre mangiato genuino e a chilometro zero, già ante litteram, anche quando imperversavano a prezzi folli i falsi profeti chef della nouvelle cuisine, no? del nostro calcio. Walter ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottore. Dica. Sulle Olimpiadi anch'io sono d'accordo che è una cosa, diciamo, da rimandare, però mi piacerebbe, quando si rinuncia a delle cose così importanti, che fossero motivate, come si diceva prima, con una sostituzione, cioè dicendo benissimo, non facciamo le Olimpiadi, ma facciamo quel tratto di ferrovia, facciamo qualche cosa d'altro, delle opere importanti strutturali. Non vorrei che succedesse come la demagogia ha fatto col ponte di Messina. Non si fa il ponte perché in Sicilia manca l'acqua, poi non si sono fatti nemmeno gli acquedotti o non si sono riparati. Grazie. Quando si esagera con i progetti, quando si fanno progetti irrealistici, poi è difficile cavalcare anche il dopo, è difficile gestire anche il dopo, no? Sia sul piano sostanziale, ma anche semplicemente su quello della comunicazione. Io credo che a chi invoca delle ragioni precise, delle spiegazioni da parte del governo per questo no, credo proprio che queste spiegazioni arriveranno. Credo anche che non siano così impossibili da immaginare, ma sono abbastanza certo che arriveranno. Chiuderei con la voce di Luis Enrique, che ieri sera è uno di quelli che proprio si sono divertiti meno a Siena. Sentiamo. Noi siamo una squadra. È una squadra, deve andare avanti, deve rialzarsi e deve vedere che una volta sbaglia uno, una volta sbaglia un altro, e così va avanti una squadra. E ho visto un Siena con una mentalità difensiva altissima, con un grande livello difensivo e aspettando dei nostri errori. E così è successo 2 o 3 volte in un primo tempo, e non era il nostro giorno. Credo che abbiamo tanti giocatori sotto il suo livello e sotto il loro livello, e così è difficile. Franco Piantanida in redazione, Filippo Aureggi in regia. Buon pomeriggio, a domani.